20 Ma ora in onda, L'Artiglio. Breve guida alle uscite cinematografiche del weekend, a cura di Fosco D'Artiglio. In sala dal 29 gennaio. Baciami ancora, di Gabriele Muccino. Con questa pellicola fa il suo mesto ritorno nelle sale italiane, al pari di una cambiale scaduta, il più irritante dei cinematografari che l'ipocrita stampa di questo paese abbia mai gonfiato di immeritata gloria. È molto, la struttura era molto per grande parte della storia e allo stesso tempo anche agganciare il pubblico e non farlo annoiare o scollare. Gonfiato al punto tale da fargli ritenere idea saggia quella di abbandonare Hollywood per dare sfogo all'impellente necessità intellettuale di prolungare i 115 minuti d'agonia di quel caravanserraglio generazionale che risponde al titolo dell'ultimo bacio. 30 anni tra un mese. Ma che pensi? Ma negli ultimi tempi hai iniziato ad annoiarti. Guarda cosa ho comprato. Ti chiedi se la tua vita potrà ancora cambiare. Ebbene sì, miei cari ascoltatori. Quello che a breve appesterà i cinema dello stivale intero altro non è che il malconcio sequel del film succitato. Un'operetta in chiave farsesca animata da personaggi accomunati tanto dalle imbarazzanti acconciature quanto dall'incapacità di esprimere il proprio sentire nei toni e termini del vivere civile. Adesso questa stronza che io pensavo fosse la donna della mia vita mi ha mollato per un altro e se n'è andata. Che cosa devo fare? Grida, pugni, lacrime, rivoltelle, mutande strappate. Questi sono infatti i fonemi del linguaggio mucciniano. Linguaggio che, e qui mi complimento con il regista, riproduce con fare iperrealista la colonna sonora della nostra Italia da talk show, dove nulla fa notizia se non è opportunamente corredato da schiamazzi e pestaggi mediatici e non. Brava, ammazza! Che state a fare? Tranquilla, ma tutto a posto. Stiamo a fare la lotta. In conclusione, Baciami ancora è una brutta danza di psicotici burattini che, oltretutto, non si avvale del generoso apporto di Martina Stella, che tanto era riuscita a donarci nel primo episodio della serie con la toccante interpretazione della teenager Francesca. Alvin Superstar 2 di Betty Thomas. È ormai un dato di fatto che nelle mani di Obama l'America sta tornando, dopo una breve parentesi al grido di Texas o morte, ad essere il paese dell'integrazione. Se questo non vi è abbastanza chiaro, ecco giungere a cementare il concetto una pellicola che è un inno alla diversità e alla speranza, un invito a perseverare nella convinzione di poter vedere realizzarsi i sogni più sfrenati, anche quando questo significa rimboccarsi le maniche e lavorare duro per abbattere muri di ostilità e diffidenza. Avete appena visto le cipette alla faccia vostra! Allora questa è una dichiarazione di guerra! Con Alvin Superstar 2, la regista Betty Thomas torna al cinema militante, dopo aver realizzato nel 98 quello che viene unanimemente considerato il manifesto dell'impegno ambientalista ed animalista, il dottor Doolittle. Castrare, ok? Ti prego, non mi castrare. Non guarderò mai più una femmina, te lo giuro. Toglimi qualsiasi cosa, ma non la mia virilità. Non la mia virilità, ti prego, non sono io. Ehi, bella gnocca, come va? Sei proprio messa bene, tartufina, sei libera. Oh, no, no, ti prego, scherzavo. No, no, non farlo, non farlo, per favore, ti prego. Con uno strepitoso Eddie Murphy in stato di grazia. Stavolta la Thomas parla alle giovani generazioni, proponendo la toccante storia di tre giovani scoiattoli rockstar in crisi, traviati dalla fame e dal vizio, sull'orlo del baratro delle proprie coscienze. I roditori sentono impellente il bisogno di fuggire dal mondo ipocrita dello spettacolo. Sacrificano dunque la fama a vantaggio di un'istruzione completa, abbandonando il rock per iscriversi al liceo. Comincia così un percorso costellato di persone autentiche, sentimenti genuini come l'amore, che porta i tre a capire cos'è che rende davvero una vita degna di essere vissuta. Bangkok Dangerous dei fratelli Pang. Come in estasi, contemplo l'uomo capace di librarsi alto, oltre le nubi della censura, una volta barattato il pudore col denaro. In un mondo stretto nella morsa del conformismo, devoto al verbo dell'apparire, ecco un lume, un faro, fendere la nebbia dell'omologazione. Quel faro ha nome e cognome: Nicolas Cage. Di recente la sua carriera d'attore è andata ben al di là della mera dimensione professionale, configurandosi come una vera e propria battaglia per la demolizione della moralità e la liberazione dello spirito. Basti pensare a pellicole come Ghost Rider, Segnali dal futuro o Il mistero delle pagine perdute. Quello a cui siamo di fronte non è un attore sul viale del tramonto, costretto a rovistare nei cassonetti di Hollywood in cerca di uno straccio di copione, ma un crociato. Qualcuno avverta Tom Cruise: non occorre più puntare il cannocchiale verso Marte nella trepidante attesa del Messia. Egli è qui tra noi ed è pronto a liberare le coscienze del mondo intero attraverso il sacrificio della propria dignità. Ed è per questo che non definirei Bangkok Dangerous un semplice film d'azione, ma soprattutto uno strumento terapeutico, capace di curarvi l'anima con dosi massicce di gangsters thailandesi ed esotiche scazzottate. C'è un codice da seguire. 1. Non fare domande. 2. Non fidarti di nessuno. 3. Non lasciarti coinvolgere. 4. Devi essere il migliore in quello che fai. Dopo la proiezione, infatti, l'ansia, la frustrazione, la mediocrità del vostro vivere quotidiano diventano ben poca cosa in confronto alla goffa, pietosa interpretazione del prode Cage. La sua ridicola zazzera e il suo sghembo sorriso fanno coppia con un intreccio grossolano al punto tale da far sembrare degna di Delitto e castigo la sceneggiatura di una qualsiasi puntata di Beautiful. Credetemi, questo dei fratelli Pang è un film da non perdere, per tutti coloro che, godendo della miseria altrui, possono tornare ad apprezzare quel poco di bello che l'esistenza gli ha riservato. Dieci. Come